domani. Pronto? Pronto, ci senti? Sì. Sì, vi sento, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. E iniziamo insomma un po' da dove vuoi, nel senso abbiamo visto un po' di rassegna stampa insomma dei giornali, delle cronache romane, tutte parlano dello sciopero indetto dai sindacati confederali e CSA per domani. Insomma esistono anche letture critiche di questo sciopero e un appuntamento per oggi pomeriggio. Se insomma vogliamo riprendere un po' il filo. Guarda, molto volentieri, perché diciamo che il momento è critico veramente per tutti, ovvero lo sciopero di domani è praticamente la prosecuzione di quello che i sindacati confederali si sono visti annullare dalla commissione di garanzia il mese scorso, visto che ce n'era già uno indetto dalle sigle di base e, come sapete, insomma, per normativa negli stessi servizi non si possono convocare scioperi generali nell'arco dei 10 giorni, quindi c'è stata una sorta di accavallamento voluto appositamente probabilmente per coprire quella che era la piattaforma che veniva presentata da USB e USI per quanto riguardava il comparto dei dipendenti comunali. Quindi è stato in quel momento uno sgambetto per quello che era lo sciopero delle sigle sindacali di base, che però è riuscito in parte, visto che comunque loro sono stati costretti a riconvocarlo per domani. Nel frattempo, chiaramente. Senti, ci vuoi in sintesi ricordare quali sono le differenze insomma tra la piattaforma di USB e USI e quelle invece dei confederali in questa trattativa? Guarda, con il comune partono proprio da un approccio di base, differenze per cui parliamo anche nel dettaglio di quanto succede nel comparto scolastico collegato direttamente al comune di Roma, parliamo di delibere che comunque tendono a spostare i servizi pubblici verso il privato, verso i nidi convenzionati, per dire, si parla di difesa delle precarie della scuola, si parla di non rispetto di accordi precedenti. Quello di domani, diciamo, di sciopero in particolare, diciamo, si incentra su quello che è il salario accessorio, che è stato attaccato dalla Giunta Marino a seguito dell'ispezione dei tecnici del MEF. In realtà il problema va oltre il salario accessorio, va per esempio collegato al fatto che ci sono dei contratti nazionali che non vengono rinnovati, per cui forse è il caso di vedere che cosa succede all'interno di quei contratti per tutelare i lavoratori, perché se si è arrivati ad avere uno stipendio per i dipendenti che per un terzo è motivato dal salario accessorio, un problema sorge, esiste davvero. Quindi diciamo quello di domani si accentra su queste di problematiche. In realtà quello che accade con il bilancio del Comune di Roma è ancora peggio, va veramente oltre, va sul taglio di servizi, quindi non solo sul taglio di stipendi. Noi abbiamo un taglio che per il 2014 nelle biblioteche, per esempio comunali, è solo, tra virgolette, perché il solo è veramente ironico, di 2 milioni di euro. Ma se andiamo a leggere il bilancio pluriennale, nel 2015 già si parla di una decurtazione del 50%. Allora io voglio sperare che chi sta lavorando sul bilancio del Comune di Roma sia pronto a rivedere queste cifre, supportato da chi quei servizi li offre. Perché noi abbiamo lavoratori ed RSU nel settore delle biblioteche comunali che hanno più volte evidenziato l'importanza di quel servizio, che fa da aggregatore sociale anche nella periferia romana, che promuove un prestito di libri milionario durante l'arco dell'anno a persone che non possono permettersi di comprare un libro. E allora diciamo che il dubbio più grande che presentiamo come ciclo di base è quello di: ma siamo sicuri che avete fatto davvero bene i conti sui tagli delle spese che volete fare? Perché dal punto di vista dell'USI in particolare siamo convinti che le spese debbano essere tagliate in altri spazi, non in questi. Quindi, ma questo è solo per fare un esempio, potremmo allargarci a tutto, possiamo allargarci al fatto che anche il sistema museale viene attaccato, e laddove si vedono dei musei piccoli, tra virgolette, perché fanno poche migliaia di biglietti l'anno, allora quei musei devono essere messi a ingresso gratuito e affidati ad associazioni di volontariato? Qui c'è un problema di approccio proprio che parte dall'offerta di servizi che dovrebbero essere un bene comune. Quindi l'assemblea di oggi pomeriggio, per tornare su quello che succede oggi e domani, in realtà in concorrenza con un consiglio comunale che parla dei problemi dei dipendenti del comune. Noi dalla piazza dove abbiamo chiesto la nostra assemblea con i dipendenti delle aziende municipalizzate abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di capire che cosa si vuole fare dopo quello che è successo con il Salva Roma, perché il Salva Roma dà carta bianca al sindaco di ridurre, accorpare, privatizzare, liberalizzare tutte quelle aziende che non offrono specificatamente servizi pubblici. E questa cosa è pericolosissima, perché non si parla mai di tutela del servizio in quanto tale e dei posti di lavoro e della dignità dei lavoratori. Quindi tecnicamente diciamo oggi c'è un'assemblea pubblica in piazza del Campidoglio, a partire da che ora? Noi alle 5:30 abbiamo dato appuntamento e l'assemblea è aperta ovviamente alla cittadinanza, perché comunque aderiscono anche associazioni come l'Usicons, quindi è una cosa che muove sì da lavoratori di aziende municipalizzate, ma in realtà ha bisogno del supporto del cittadino romano, perché tra l'altro in questi mesi c'è stata una campagna di denigrazione di chi ha, chiamiamolo posto fisso, poi come vediamo nella realtà anche chi lavora in un'azienda municipalizzata non è che sia così tranquillo, quindi bisogna cominciare a chiarire che cos'è un posto fisso oggi nel 2014. Bisogna cercare di ricostruire il rapporto tra i lavoratori di queste aziende e il cittadino che percepisce quel lavoratore come un approfittatore, come il furbetto del quartierino. Perché? Perché c'è un sindaco che, grazie a una stampa prezzolata come quella del gruppo Caltagirone, che più volte ha pubblicato attacchi per esempio nei confronti degli operai AMA, si permette di dire che la situazione dei rifiuti su Roma è dovuta agli assenteisti. Sì, fra l'altro, insomma, l'avrai visto anche tu, anche questa mattina il quotidiano di proprietà di Caltagirone dedica una mezza pagina a un report sull'assenteismo dei dipendenti e delle dipendenti del Comune di Roma. Allora, io sono una lavoratrice e conosco quali sono i miei diritti e i miei doveri collegati a delle normative che sono innanzitutto nazionali. La mia azienda, e quindi anche l'AMA, che è molto più grande della mia azienda, ha tutti gli strumenti possibili in mano per verificare chi è assente e sanzionarlo con tutti gli strumenti che le leggi gli mettono a disposizione, che arrivano anche al licenziamento. Quindi se vogliamo andare a vedere, noi siamo lavoratori come tutti gli altri, non è che l'assenteista è privilegiato. E comunque, quando si parla di assenteisti in questo modo, come ha fatto il sindaco, per giustificare il dramma che vive la città di Roma sui rifiuti, è vergognoso, perché non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché 22 lavoratori non sono chiaramente lo specchio di un'intera azienda, di un'intera classe lavoratrice che tutti i giorni, con tutte le difficoltà di questa città, ricordiamo che altri lavoratori AMA sono stati aggrediti perché intralciavano il traffico secondo gli automobilisti. Con tutte le difficoltà. No, vabbè, poi insomma diciamo che questo discorso rientra in una campagna molto vasta a cui abbiamo assistito in questi anni, che è anche più grande di quella riguarda il Comune di Roma, su contro il pubblico, i dipendenti del pubblico, insomma, tacciati di essere fannulloni, la rovina dello Stato. Esattamente, sostanzialmente. Esattamente. Questo per procedere al taglio progressivo. Tutti i giorni queste persone vanno sui posti di lavoro con tutte le difficoltà di una città come Roma, ve lo ripeto, perché chi abita in periferia ci mette mediamente un'ora e mezza per riuscire ad arrivare sul posto di lavoro per tragitti che magari sono di 15 chilometri, cioè la periferia romana sta a 20 chilometri dal centro di Roma, eppure per fare 20 chilometri ci vogliono un'ora e mezza minimo di spostamenti. Quindi persone che con 1000 euro al mese ogni giorno erogano questi servizi alla cittadinanza si devono sentire dire e offendere persino dal sindaco? Io non lo trovo giusto. Io credo che sia il momento che il rapporto tra i lavoratori, sia del comune, quindi dipendenti pubblici, sia quelli delle aziende municipalizzate, venga ricostruito correttamente con i cittadini tutti, perché anche noi lavoratori siamo cittadini, soprattutto noi delle municipalizzate, sullo stipendio è come se ce lo pagassimo da soli, perché se l'ente pubblico eroga il finanziamento perché l'azienda municipalizzata lavori, significa che io da cittadino prima, con le tasse, ho contribuito a che l'ente locale abbia attive delle aziende municipalizzate. Quindi è un circolo chiuso su cui tutti dovremmo lavorare al meglio, non attaccarci vicendevolmente. Certo, senti, quindi insomma oggi pomeriggio c'è questa assemblea a partire dalle 17:30 in Piazza del Campidoglio. Sì, e mentre è un momento critico in particolare per alcune aziende che vedono già dei licenziamenti in piedi, una è la multiservizi, un settore è quello dei canili che non si sa che fine faranno visto che ci sono delle problematiche legate anche alla messa a norma delle strutture dove vengono ospitati i cani qui a Roma, si pensa di ristrutturare canili non a norma riducendo il numero dei cani e spostandoli in canili privati convenzionati, ma nessuno ha verificato che quei canili convenzionati abbiano tutte le cose in regola, perché poi è facile dire beh qui non è a norma, chiudiamo, spostiamo, ma prima di spostare ovviamente bisognerebbe verificare anche dove li mandi, sennò il problema si ripropone. Bisogna iniziare un lavoro coerente di collaborazione tra chi presta i servizi quotidianamente, forse sono ripetitiva, però bisogna che questa amministrazione, questo sindaco che non ha voluto incontrare le sigle sindacali di base che avevano mantenuto lo sciopero il mese scorso, non le ha volute incontrare, bisogna che cominci a interagire con le persone che i servizi lì erogano e quindi conoscono le difficoltà e dove andare a risparmiare davvero. Senti, passiamo anche a insomma dire qualcosa sullo sciopero di domani, appunto, indetto da CGIL, CISL, UIL e CSA. Voi non avete aderito e anzi insomma i sindacati di base tutti non hanno aderito e anzi sottolineate un'ambiguità di questa data, cioè oltre al fatto come dicevi prima il prolungamento, insomma la ripresa di quello sciopero che era stato indetto di fatto per coprire una data indetta dai sindacati di base, ma anche sulle vertenze proposte. Certo, ti ripeto, focalizzare l'attenzione, come potrebbe anche sembrare giusto di primo acchito, perché ripeto, il salario accessorio è comunque una parte preponderante dello stipendio dei dipendenti capitolini, perché nell'arco degli anni quella voce è arrivata a coprire un terzo dello stipendio, quindi la difesa di quella voce è comunque necessaria, ma dietro c'è tanto tanto altro, perché è il bilancio di questa città che crea problemi alle piattaforme sindacali, perché io non mi posso limitare a difendere lo stipendio, io devo fare in modo che nessun altro venga attaccato nella propria dignità lavorativa, devo fare in modo che vengano stabilizzati i precari e le precarie della scuola, che sono troppi anni che vengono trattati come merce, veramente quasi come i vecchi schiavi che andavano a lavorare per una giornata. Non si può, non si deve, soprattutto se consideriamo che per quanto riguarda per esempio i nidi abbiamo una difficoltà legata a delle delibere incredibili che dicono che un risparmio è per il comune per esempio affidare bambini nei nidi convenzionati, quindi non tutti i nidi comunali, nel mese di luglio, con un problema che è legato anche direttamente ai bambini, perché le precarie che durante sostituiscono le insegnanti titolari li conoscono questi bambini e lavorano municipio per municipio. Nel momento in cui fino all'anno scorso si attivavano anche solo pochi nidi per municipio, si andava a coprire il posto della titolare, quelle precarie, quei precari che durante l'anno comunque avevano conosciuto i bambini. Spostare bambini in nidi convenzionati con gente del tutto estranea, per esempio, non è forse un problema serio per le famiglie? Si ricomincia a combattere con l'inserimento, non c'è inserimento, non è previsto inserimento. Tu sballonzoli il bambino con gente estranea da un momento all'altro. È questa la politica che il sindaco vuole portare avanti per le famiglie di Roma? Senti, potremmo andare avanti per ore. Certo. Io ritengo che sia più opportuno che chi ci ascolta cerchi di trovare tempo per venire oggi in Piazza del Campidoglio alle 5:30, perché noi abbiamo bisogno di confrontarci direttamente con le persone, con i cittadini. Abbiamo bisogno di allargare la voce che purtroppo, come abbiamo detto prima, con la stampa che c'è su Roma, governata direttamente da grandi famiglie che non hanno alcun interesse a difendere i beni comuni e i beni pubblici, non dà spazio alle nostre voci, anzi cerca sempre di attaccarci e denigrarci quotidianamente. Senti, è importante sollecitare la partecipazione. Un'altra ambiguità, diciamo, che viene sottolineata di questo sciopero di domani è il fatto che, insomma, sembra che questi sindacati che l'hanno indetto, i confederali, puntino tutta l'attenzione sull'amministrazione di Roma senza fare un discorso più allargato rispetto al fatto che di fatto il comune di Roma è un comune commissariato e che il commissario è il governo e che quindi, insomma, la trattativa va anche alzata, insomma, di livello. Questo purtroppo lo abbiamo vissuto quasi sempre, nel senso che c'è proprio una cattiva abitudine di settorializzare le battaglie e le lotte, come se avessimo tutti la sindrome del nostro giardino. In realtà quello che accadrà su Roma non è nient'altro che l'aperitivo di quello che accadrà in tutte le città d'Italia, perché se noi lasciamo che su Roma passino delle politiche di tagli così devastanti, con la possibilità di fare per esempio dei lavoratori delle aziende municipalizzate ciò che ci pare nel momento in cui si parla di mobilità interaziendale, quindi spostare le persone da un'azienda all'altra senza mettersi a tavolino e discutere le forme contrattuali di questi spostamenti e di rispetto della dignità delle persone, noi siamo di fronte a una politica di gestione delle lotte che è veramente provincialista. Noi siamo consapevoli invece come sigle di base che la lotta e quindi il tiro della lotta debba essere alzato a livello governativo, tant'è vero che eravamo già in piazza nel 2012 quando con Monti si varava la prima spending review ufficiale, quando Monti stava già dando i primi tagli alle aziende municipalizzate, agli enti locali e via discorrendo. Noi eravamo sotto al Senato, qui a Roma, a combattere quei provvedimenti. Altre sigle si incontravano in piazza del Pantheon per dirselo tra loro. È proprio l'approccio che è differente. Io voglio che le persone conoscano quello che viene fatto sulle loro teste, non lo devo raccontare solo ai miei iscritti. Io voglio che le persone riprendano coscienza del fatto che hanno dei diritti legati ancora a una Costituzione che dice per esempio che questa dovrebbe essere una Repubblica fondata sul lavoro e non lo è per niente, e che tornino con noi in piazza a difendere quei posti di lavoro che stanno venendo attaccati, per cercare di difendere tutti quei precari che non sono ancora stabilizzati e fare in modo che le politiche del Jobs Act non determinino tutto il precariato che stanno mettendo in piedi. Abbiamo bisogno di fare fronte comune con il cittadino. Io non mi stancherò di ripetere queste cose perché, ripeto, troppo è stato fatto contro chi ha uno straccio di posto di lavoro per denigrarlo. È ora di rimettere le cose a posto. Pronto, senti, noi ti ringraziamo e appunto l'appuntamento per oggi alle 17.30 in piazza del Campidoglio. Io ringrazio voi perché questo è uno spazio importante dove appunto riusciamo a far passare la comunicazione e anche un altro tipo di informazione, facciamo un po' di controinformazione seria. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. La classe operaia accompagna l'attacco. Stato e padroni non